all'istante partir di qui vorrei, ma non possio. L'importuna insistenza pensi allo scherno sopportar, perché a no si porta a questa dura prova, a regger non so, no si porta, che tento al padre mio di rimaner promisi, lo attenderò, ei qui verrà delle mie pene un premio, sarà la man di loro che un'altra mano, che un'altra mano non so. Quando nascesti tu, nasce nel fior che la cera baciò, e in me sorgeva insieme quell'amor che mi beò, e fin dall'ora ardente il cuor sola li do. Quando nascesti tu, nasceva la sua giovane, carina mia, e di la sua unire, e le fiore adore, per la tua. Così, così, nell'estasi, tra i baci miei, adorme la terra ti vorrei, e sogni di gloria e trofei insiem disprezzerei, solo di poter ti amor. Quando nascesti tu, nasceva la sua